Siamo in collegamento con Alberto Astorri, che insieme a Paola Tintinelli porterà in scena al San Leucio Officina Teatro il sabato 21 e domenica 22 Il sogno dell'arrostito, ovvero povertà e desideri di rivoluzione di due umani. Ci sei? Sì, ci sono, ciao. Ben trovato su queste frequenze, Alberto. Grazie. Allora, ci racconti un po' di questo progetto teatrale? Sì, questo progetto nasce quasi un anno fa, quando Paola ed io ci siamo messi in testa di lavorare sul sogno, di chiedere alle persone, insomma, in qualche modo di capire dove stava l'orizzonte del sogno, dov'è l'orizzonte del sogno ancora oggi. E allora abbiamo preso il nostro pulmino e abbiamo girato nei mercati, nelle piazze, e abbiamo chiesto alle persone di lasciarci le proprie voci, che registravano dentro il nostro furgone in maniera del tutto anonima e solitaria, e quindi siamo partiti da questa indagine, cioè le persone ci hanno lasciato un po' quello che volevano, anche i sogni, certo, che uno fa la notte, però per noi non era tanto quello quanto il sogno, come il sogno di un mondo, no? Di un mondo nuovo, di un mondo diverso, per capire un'utopia, insomma. Sì, l'utopia, sì. Perché il tema, diciamo, del nostro lavoro ruota appunto attorno al fatto che nella vita ciascuno di noi, soprattutto quando si è giovani, no? Uno pensa di poter cambiare il mondo, di poter cambiare le cose, no? E poi però questa cosa piano piano sparisce e non uno ci rinuncia, ecco. Per cui attraverso questa immagine dell'arrostito, che per noi è un po' l'immagine nostra, insomma, di questo tempo dove ci si cuoce lentamente, no? Dove i roghi del potere, che sono tanti, ci cuociono tacitamente e lentamente. E quindi volevamo capire che cosa succede quando tu sei convinto di essere sempre lo stesso e di avere le stesse utopie, ma in realtà sei cambiato, sei profondamente cambiato, no? Foucault diceva che il potere mette in atto una mutazione antropologica, ecco, e quindi questo cambiamento avviene e tu sei convinto di essere lo stesso, ma in realtà passi dall'altra parte. Insomma, i temi sono questi, ecco. Sì. Senti, questo materiale raccolto, questi vari sogni raccolti in giro, poi come li avete miscelati in uno spettacolo, su quali punti avete insistito e come è venuto fuori l'indirizzo che avete pensato? Ma guarda, la cosa più emozionante è stato ascoltarli. Sì. Perché ci siamo messi lì ad ascoltarli e da una parte ci siamo desolati tantissimo, perché oggi c'è proprio la mancanza di un orizzonte di sogno, cioè non c'è. Le persone entravano, ma con fatica, ma non sono rarissime le voci che avevano veramente un sogno davanti. Quindi questo ci ha desolato tanto, perché capisci che le persone poi sono stritolate un po' dal quotidiano, no? Sì. Però dall'altra parte il fatto di registrare le voci è stato un fatto emotivo, quindi ci sono delle voci che al di là di quello che dicono trasmettono un fatto. Noi poi abbiamo cercato di capire come qualche testo di queste voci potesse entrare nello spettacolo, e poi su questo abbiamo costruito la nostra drammaturgia, e però nel finale, nella parte finale del lavoro, queste voci si sentiranno, alcune di queste voci che stiamo scegliendo si sentiranno proprio in cui il pubblico avrà modo di ascoltare le voci della gente normale, delle persone. Senti, si tratta di una prima nazionale, avrete poi un percorso dopo questo appuntamento di San Leucio? Sì, è una prima nazionale che abbiamo voluto fare ad Officina Teatro, perché è uno spazio bellissimo e molto raro. Stanno facendo un lavoro veramente molto bello. è prezioso. Quindi abbiamo deciso, ci siamo incontrati l'anno scorso portando un altro nostro spettacolo a Officina, e quest'anno abbiamo deciso di portare il debutto nazionale qui. Poi andremo a farlo a Milano, 2 settimane al Teatro della Contraddizione a Milano, e poi lo presenteremo in estate al Festival di Armonia quest'estate. Nella fase di, diciamo, di scrittura ci ha dato una mano Rita Frongia, che è una drammaturga e che ci ha aiutato, diciamo, in una fase appunto di lavoro sul testo. Senti, a parte che ci vedremo questo fine settimana a San Leucio, ci lasci dei riferimenti internet per saperne di più sulla vostra attività? Sì, vi lascio il nostro sito, che è www.astorritintinelliteatro.com. Benissimo, appuntamento sabato 21 e domenica 22 a San Leucio, Officina Teatro, con Il sogno dell'arrostito, ovvero Povertà e desideri di rivoluzione di due umani, con Alberto Astorri e Paola Tintinelli. Un abbraccio e a sabato. Un abbraccio a voi. Ciao. Ciao, buona giornata. Ciao. Ciao. Grazie.